Radio 24 Reportage. Le due facce di Mirandola, la rinascita delle aziende, i silenzi delle piazze. Ritorno nella bassa a 3 anni dal terremoto, di Raffaella Calandra. Da una parte i muri lucidi dei capannoni appena riaperti, dall'altra le finestre puntellate dei palazzi ancora pericolanti. Da una parte il rombo dei macchinari ai massimi giri e il vociare degli operai, dall'altra il silenzio di strade sbarrate da tempo, dove i passi si avvertono a grande distanza e l'eco delle campane si amplifica nel vuoto più profondo. 3 anni dopo il terremoto che uccise nella bassa modenese 27 persone, Mirandola ora ha due facce, quella delle imprese ricostruite a tempi record e più forti di prima, soprattutto grazie all'export, e quella del centro storico dove le transenne chiudono ancora l'ingresso nelle zone rosse e il sole arroventa ancora chi abita nei container, 1.288 le persone in tutta la bassa. E allora bisogna decidere come vederlo questo bicchiere, se è mezzo vuoto o mezzo pieno. Il terremoto è servito a fare proprio una selezione all'interno delle realtà produttive, di specializzarsi a fare determinate tipologie di lavoro. C'è odore di vernice fresca e di mobili nuovi negli uffici della HMC di Mirandola, una delle tante aziende del distretto biomedicale. In una battuta, Andrea Bisi sintetizza quello che il padre Giuseppe, titolare della società, spiega attraverso le tappe di questi 3 anni, dai crolli dei capannoni a Medolla il 29 maggio 2012, di fronte a quella Emotronics dove le lamiere schiacciarono anche gli operai al lavoro, alla prospettiva di aumentare ancora del 10% i dipendenti l'anno prossimo. Come noi, tante altre aziende, diciamo, che si sono portate, diciamo, ad avere ammodernato tutti quanti gli stabilimenti. Cioè, quello che era un po' il timore, che le realtà più grandi potessero decidere di andare via, si sta confermando che invece ha una capacità attrattiva anche maggiore rispetto al passato. Penso proprio di sì. È in tutta l'area che le esportazioni sono aumentate, salite a oltre 293 milioni, quasi il 10% in più del 2013, merito di rinnovamento, specializzazione e attitudine al lavoro, per dirla con Maurizio Borsari della Dimar. Per il secondo anno consecutivo abbiamo un più 30% di fatturato. Come ci siete riusciti? Perché anche voi avete avuto gravi danni. Sfida, orgoglio. Se prima facevamo una media di 10 ore al giorno, siamo passati alle 14-16 ore al giorno, anche con 38 gradi dentro nei container. Come si dice qui dalle nostre parti, abbiamo tenuto botta. Quando il terremoto ha sconvolto le vite e le aziende di queste famiglie, sono saltati schemi e competizioni, così società concorrenti si sono ritrovate a utilizzare le stesse camere bianche, stanze sterili, fondamentali per la produzione di materiali per le sale operatorie, e altre hanno formato come una rete, come racconta Alberto Nicolini, che del distretto fa quasi da portavoce. Una quindicina di aziende impiantiste del settore termotecnico ed elettrico sono sempre state concorrenti, ma di fronte alla calamità naturale hanno avuto la priorità di trovare il modo di difendere il proprio mercato aiutandosi, una sorta di consorzio. Lo sprint del distretto biomedicale è stato favorito dalla presenza delle assicurazioni alle spalle delle imprese principali, che quindi non hanno dovuto aspettare i tempi degli aiuti pubblici per ripartire. Lo dicono le storie dei singoli e lo dicono i numeri raccolti dal sondaggio realizzato sull'84% delle imprese dal plastico della vita di Nicolini. È emerso che i grandi ancora non avevano presentato perché erano tutti assicurati, i piccoli hanno un terzo presentato e ricevuto, un terzo presentato in attesa di recessione, il restante terzo è fra chi non presenterà perché i danni sono poco significativi e chi sta ancora sviluppando le pratiche. Perché a 3 anni dal terremoto le imprese di questa zona ora sono più forti di prima? È anche stata l'occasione per un rinnovamento completo degli impianti, cioè le aziende hanno avuto un impulso a spingersi su nuovi mercati e questo comincia a dare un qualche risultato. Chi Chi invece ha dovuto o scelto di far ricorso a Sfinge, il sistema regionale per i risarcimenti, sta ancora combattendo e non poco, con tempi lenti e burocrazie complesse. Forse già il nome doveva preludere a qualcosa, scherza Paolo Arcangeli, direttore del salumificio MEC Palmieri. Noi non abbiamo fatto i conti prima di intervenire e tantomeno abbiamo impostato il progetto di ricostruzione secondo le norme che si stavano formando. Questo ci ha reso particolarmente complesso il lavoro, perché col secondo di poi abbiamo scoperto che una serie di interventi si incrociano male con la logica dell'ordinanza, quindi una parte dei importanti dei nostri investimenti non verranno riconosciuti come tali. Picchia oggi come 3 anni fa il sole sulla bassa, arroventa l'aria e nessun riparo si trova all'ingresso di aziende nuove dove gli alberi appena piantati sono troppo bassi per fare ombra e roventi ancor di più l'aria dentro i container. 1.288 persone hanno ancora queste scatolette di lamiera come casa, qui a Mirandola, come a Cavezzo e Novi e sparsi e qua e là nei vari comuni del cratere della bassa, mentre 3.700 famiglie vivono altrove e ricevono contributi per l'autonoma sistemazione. Questo è il terzo anno. A me non ci interessa il muro, no? No, questa lamiera. Tenda, poi in hotel, dopo venire qui. Da quanto tempo abitate qui in questo container? Sono 2 anni e cioè, 3 mesi. Dov'è la vostra casa? Sempre qua a Mirandola. Siamo 3 fratelli, una sorella e un altro fratello. Siamo tutti qua in questo campo, almeno quello. Si affacciano soprattutto donne nate in altri paesi o anziani dalle porte di questi container, dove il ronzio dei condizionatori è la colonna sonora comune e la puzza di muffa l'odore più diffuso. Nella casa della signora Silvia, una delle più anziane rimaste nel campo di Mirandola, tra scatoloni e valigie c'è solo un piccolo sentiero, come lo chiama lei, per raggiungere il letto, ora che ha dovuto svuotare la vecchia casa dove in questi 3 anni più volte sono entrati anche i ladri. Abbiamo fatto la tenda, io piuttosto, se mi viene addosso la casa, preferisco. Devo spostare tutto, quando devo aprire il frigo devo spostare tutto. Casa sua, da quando lei è terremotata, le sono entrati anche i ladri? Sono entrati i ladri, sì. E hanno rubato di tutto. Hanno rubato anche il mangiare, hanno rubato. Sì, una desolazione. C'è una cosa a cui la signora Silvia proprio però non riesce ad abituarsi, questi fornelli elettrici dove il sugo non viene bene, dice. Lei invece era abituata a farlo sempre, il ragù per le tagliatelle. Le chiamano sfogline in Emilia, le donne che fanno tortellini, tagliatelle, poi li rivendono. E negozi di pasta fresca c'erano pure nel centro storico di Mirandola, dove ora le campane invece richiamano fedeli verso chiese mai più riaperte, quando non del tutto distrutte, come quella di San Francesco che 2 anziane puntualmente vanno comunque a salutare dall'esterno. È molto deprimente, siamo venuti proprio a vedere e è un gran dispiacere. La piazza era sempre affollata, sì. Tanto è vero che la chiamano il listone quella. C'era l'abitudine degli uomini che passeggiavano sempre avanti e indietro e poi davano un calcio al muretto e poi andavano dell'altro muretto. Facevano le vasche. Sì, sì, sì, sì. Sul listone, gruppi di Umarel sorvegliano l'allestimento dei gazebo per la fiera di Mirandola e anche i rivenditori di tegole per i tetti in un paese terremotato hanno voluto esporre quest'anno. In questi 3 anni, in ogni modo e con 1.000 iniziative da subito, si è cercato di rianimare la piazza, di riportare le persone ad incontrarsi intorno al castello o vicino al Duomo. E questo, ammettono tutti, indipendentemente dalla fede politica, ha evitato l'effetto L'Aquila, un centro popolato, cioè solo di fantasmi. Ma anche qui a Mirandola, spariti i residenti, sono svaniti pure i negozi riaperti in vari satelliti nelle periferie degli improvvisati centri commerciali, proprio come nel capoluogo abruzzese. Così il signor Franco, che una volta andato in pensione aveva deciso di comprare la casa in centro proprio per stare in mezzo alla gente, ora passa in bici per controllare i lavori della sua abitazione e con gli occhi lucidi va subito via. Abbiamo perso molto tempo per poter presentare il progetto, poche parole. E a lei passare in bicicletta adesso per questo centro storico che è tutta un'impalcatura, che effetto le fa? È una tristezza, infatti me ne vado il più presto possibile perché, come può vedere, si è perso tutto, non ci sono più bar, non c'è più niente ormai. Anche l'efficienza emiliana ha dovuto scontrarsi con i drammi del terremoto. E se la rete dei servizi è stata subito ricostruita, se il motore economico è ripartito immediatamente e ora va ancora più veloce di prima, è la ricostruzione delle case private ad essere invece rimasta per 3 anni bloccata nei vincoli della burocrazia e nelle ristrettezze economiche. Ma i bracci delle gru comunque si muovono. Qualche bicicletta continua ad attraversare il cosiddetto listone nella piazza di Mirandola e le imprese sono orgogliose di dire di aver rinnovato tutto solo con manovalanza del posto. 3 anni dopo questo sisma è ancora evidente nelle cicatrici dei muri antichi, ma dentro i capannoni è diventata per tutti la ragione nuova per tenere botta ancora di più e fare meglio di prima. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.